La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. L'articolo 10 riguarda la partecipazione dell'Italia alla comunità internazionale. Per capire bene questo articolo, come tanti altri, dobbiamo porci sempre con la mente al 1946-47. L'Italia era un paese sconfitto dalla guerra. Ovviamente da paese sconfitto non puoi restar fuori dalla comunità internazionale. E allora il Costituente si pone il problema, e si pone nell'articolo 10 due problemi. Innanzitutto, l'Italia fa parte della comunità internazionale, e ne fa parte come? Riconoscendo le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Quindi i principi internazionali valgono automaticamente anche in Italia. E poi c'è il problema dello straniero. La Costituzione è scritta innanzitutto per i cittadini, lo ricordiamo sull'articolo 3, l'eguaglianza è di tutti i cittadini, però la Costituzione deve porsi la questione degli stranieri. Vanno tutelati e rispettati secondo le leggi del diritto internazionale, secondo i trattati internazionali, ma vanno anche particolarmente tutelati quando ci sono impedimenti all'effettivo esercizio delle libertà democratiche e quindi il diritto di asilo. Anche sul diritto di asilo i costituenti hanno visto lungo, hanno guardato lontano, perché hanno posto la garanzia del diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, ma quando? Quando lo straniero sia impedito nel suo paese l'esercizio effettivo delle libertà democratiche garantite dalla nostra Costituzione. Quindi una grande apertura di civiltà giuridica e dei nostri valori democratici verso tutti i paesi. Garanzia rinforzata ancora di più rispetto ai reati politici, perché l'ultimo comma vieta l'estradizione dello straniero per reati politici, reati ovviamente commessi nel suo paese. Quindi l'Italia si pone nella comunità internazionale e si pone con grande garanzia dei diritti della persona umana, anche non appartenente allo Stato. E queste sono tematiche molto attuali, perché con tutte le problematiche dell'immigrazione e degli sbarchi ci troviamo quotidianamente a confrontarci con gli stranieri, sempre sotto le garanzie costituzionali.